Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Voilà, siamo qua, sono le 11:11. Buongiorno a voi, a Fabio Cantadoni in regia alla parte tecnica e a Laura Vanossi in redazione. Andiamo a sentire il nostro sommario. Dermatiti, quando la pelle si lamenta. Sindrome da crepacuore, spiegato il perché. Afrodisiaci naturali, dipende. Dermatite, quando il derma, cioè la pelle, si infiamma. Squamette, vescicole, crosticine, secchezza, prurito, rossore. Sono tanti diversi i modi con cui la pelle manifesta il suo disagio, il suo disappunto. E tanti nomi che si associano al termine generico dermatite. C'è quella atopica, quella da contatto, quella seborroica e, proprio per non farci mancare nulla, anche quella erpetiforme. Insomma, oggi parliamo di un gruppo di malattie della pelle molto ampio, con sintomi che possono sembrare molto simili ma con cause e decorsi tra loro differenti. Quindi vi invito a ispezionare la vostra pelle, chiamare il nostro numero verde 800 24 00 24 o a scriverci 349 238 6666. Ci impresta il suo occhio clinico il professor Carlo Gelmetti, direttore dell'Istituto di Scienze Dermatologiche dell'Università di Milano. Professore, buongiorno, grazie. Buongiorno, grazie dell'invito. Qui in studio con me però c'è Alessandro Pellizzari. Ciao Alessandro. Buongiorno Nicoletta. Vice caporedattore di Star Bene, che il mensile della Mondadori, che a questo uno di queste dermatiti ha dedicato un ampio servizio. Noi ci siamo concentrati, anche con l'aiuto del professor Gelmetti, sulla dermatite atopica, perché abbiamo scoperto, almeno molte delle nostre lettrici pensavano fosse un problema prettamente infantile, invece si sono riscoperte dopo i 30 anni ad avere lo stesso problema. E questo, diciamo, è importante perché soprattutto in questo caso il servizio si chiama È successo a me, quindi c'è sempre una storia che viene raccontata. La cosa che a me ha colpito è che questa ragazza che ci ha raccontato di avere la dermatite atopica, l'ha scoperto dopo, è passata attraverso tutta una sequenza di diagnosi e anche di test cutanei che non davano nessun riscontro, per cui è stato bravo il dermatologo a capire poi la vera causa, però questo ci ha colpito molto. Professor Gelmetti, si passa sempre, è sempre così difficile arrivare ad una diagnosi? Ma il problema in effetti della dermatite atopica, che 20 anni fa si diceva che era una malattia solamente dei bambini, che poi la pubertà scompariva, non è più così, nel senso che più del 10-15% dei pazienti in realtà ce l'aveva magari da bambino, però se la porta anche in età adulta. Perché questo è avvenuto non lo sappiamo forse bene, ma senz'altro il nostro modo di vita e purtroppo l'inquinamento, che non è diminuito, sia di tipo batterico, cioè l'antropizzazione, sia di tipo industriale, probabilmente ci ha dato una bella mano. Allora, professore, iniziamo a capire quali sono i tratti comuni delle dermatite. Credo che il primo messaggio da dare è che non sono contagiose. No, è vero, le dermatiti sono infiammazioni della pelle non contagiose, quindi chi ce l'ha può star tranquillo, perché non la passerà a nessuno, né al proprio convivente, né ai propri figli, nipoti, per cui da questo punto di vista, come socialità, siamo assolutamente tranquilli. Il problema è che la dermatite, che vuol dire infiammazione della pelle, è fastidiosa da due punti di vista: uno soggettivo, perché in genere sono abbastanza, danno un po' di prurito, danno sensazione di bruciore, di fastidio, eccetera, e uno, se è ovviamente visibile dal punto di vista psicologico. Beh, perché certo, evidentemente l'immagine di se stessi non è la migliore. Ci sono altre caratteristiche che le accomunano, professor Gelmetti? Ma sostanzialmente da fuori le dermatiti sono tutte uguali, cioè, se noi guardiamo una piccola zona di pelle senza contestualizzarla, la pelle diventa rossa, può avere un po' di sudazione, poi si copre di crosticine che poi lasciano una desquamazione tardiva, e questa storiella, diciamo, è stereotipata per tutte le dermatiti. Sì. La differenza la fanno le sedi e soprattutto l'epoca di comparsa, per cui, come è stato detto all'ingresso della trasmissione abbiamo la seborroica, abbiamo la topica, l'abbiamo da contatto, eccetera. Per cui queste qui, diciamo, hanno una loro collocazione temporale abbastanza stereotipata. Allora, io direi che per orientarci possiamo farci guidare dal dove, come, quando. Dove, quindi, siete pronti a raccontarci quali sono le zone interessate, perché la localizzazione, come ha anticipato il professor Gelmetti, può fare la differenza. Passiamo alla voce come. Descriveteci le lesioni, i ponfi, le squamette, le crosticine, i puntini, l'eventuale presenza di gonfiore o rossore, e arriviamo al quando. E qui vi chiedo uno sforzo in più, perché abbiamo sia le stagioni della vita che quelle dell'anno, oltre naturalmente a occasioni che si presentano nella quotidianità, situazioni, condizioni, incontri, o meglio scontri in questo caso, che voi avete per esperienza associato all'insorgere o al riacutizzarsi del vostro problema. Professor Gelmetti, vogliamo aggiungere qualcosa prima di dare la parola ai nostri amici da casa? No, direi che questo tipo di esposizione è molto intrigante, anche perché fa appello anche alle variazioni stagionali, che in alcune zone sono importanti. Poi bisogna dire che in Italia questo problema si complica dal fatto che l'Italia è molto lunga e stretta, e quindi le variazioni stagionali in realtà sono proprio molto diverse da regione a regione, e questo fa un po' la differenza tra quello che c'ha una dermatite a Catania e quello che ce l'ha a Belluno, ad esempio. Sì, aggiungerei forse una particolarità, che è quella di non pensare solo, diciamo, appunto alla pelle, ma anche per esempio ai capelli e alle sopracciglia, perché se è corretto, mi corregga il professor Gelmetti, per esempio la dermatite seborroica molto spesso le squamettine vengono prese come forfora, eccetera, quindi a volte le nostre lettrici dicono: ma io in realtà ho un problema di capelli, ho un problema di... Quindi dalla punta del capello all'alluce, facciamo così? Direi proprio lungo di sì. Tutto lo stivale. 824 0024, messaggi 349 238 6666. Una mela al giorno. Sembra infarto, ma per fortuna non lo è, anche se ne mima tutti i sintomi: dolore al petto, elettrocardiogramma alterato e il rilascio di quegli enzimi che si muovono proprio quando sopraggiunge l'infarto. La sorpresa è che le coronarie sono assolutamente pulite, pervie, come dicono i medici. È un problema che riguarda questo prevalentemente le donne, specie in menopausa. C'è chi chiama questo non infarto crepacuore, chi cardiomiopatia da stress, o, con un termine più esotico, sindrome di tacco tsubo. Ora una ricerca permette di fare chiarezza sulle cause. In linea con noi abbiamo il coordinatore di questo studio, il professor Filippo Crea, direttore dell'Istituto di Cardiologia dell'Università Cattolica di Roma. Professore, bentornato e complimenti. Grazie, buongiorno a lei e a chi ci ascolta. Professore, ma qual è la causa di questo problema cardiaco? Allora, guardi, questa è stata un'esperienza molto interessante, perché di recente colleghi giapponesi hanno per primi descritto questa sindrome intrigante, perché appunto donne di solito in menopausa, dopo uno stress emotivo intenso, arrivano al pronto soccorso, hanno il dolore infartuale, però poi quando facciamo la coronarografia per riaprire la coronaria chiusa, che è quella responsabile dell'infarto, troviamo a sorpresa che le coronarie non sono ostruite, ma sono pervie. E allora ci siamo posti il problema: ma perché i sintomi simulano l'infarto, e soprattutto perché il cuore funziona male? Perché in queste pazienti il cuore, quando arrivano al ricovero, funziona male, si contrae poco bene, e questa alterazione spesso è veramente pronunciata, qualche volta anche preoccupante. Allora ci siamo posti il quesito del perché, e abbiamo trovato che in questo caso quello che limita l'arrivo, l'afflusso di sangue al cuore, non risiede in quei rami coronarici che sono ostruiti dall'infarto, ma l'ostruzione risiede nel microcircolo coronarico. E per microcircolo coronarico intendiamo dei vasellini che hanno un diametro di 200-300 micron, Sono quelli che alla fine fanno proprio arrivare il sangue al cuore. Quindi, ecco, professore, quando questo microcircolo è ostruito si ha questa sindrome di Takotsubo, o come si ama dire in Italia, del crepacuore. Quindi, professore, immaginando un albero, il problema risiede non nei rami grossi ma nei rami quelli piccini. Esatto, l'esempio dell'albero è splendido perché è proprio così. Le coronarie sono le arterie che portano sangue al cuore. E sono proprio come i rami di un albero, il tronco e l'aorta, il vaso principale dell'organismo, dall'aorta si dipartono questi rami che portano sangue al cuore. Che e si fa, professor Crea? Il danno è reversibile oppure si torna nuovi dopo questo evento? Abbiamo detto che non è uguale all'infarto, quindi anche il post-evento avrà delle caratteristiche differenti, immagino. Assolutamente sì, nell'80% dei casi questa alterazione della funzione cardiaca si risolve spontaneamente in 2 o 3 settimane, però in un 20% di casi il recupero non è così pronto e non è così completo. Ed è per questo che queste osservazioni che chiariscono le cause della sindrome del crepacuore hanno anche delle implicazioni terapeutiche, perché capire la causa del problema ci aiuta a risolverlo quando questa malattia non è spontaneamente e completamente reversibile. Professor Crea, salutiamoci con una raccomandazione, direi al femminile a questo punto, no? Assolutamente non sì. Che non abbiamo a cuore il cuore degli uomini, dei nostri ascoltatori, ma precedenza alle donne in questo caso. Per evitare di danneggiare le coronarie e tutte le arterie dell'organismo occorre fare una buona prevenzione, che consiste appunto nell'avere un'attività fisica regolare, nel non ingrassare e nel non fumare. Questo è il modo migliore per rispettare le coronarie, e quando le rispettiamo, e facendo così rispettiamo sia le coronarie grandi sia il microcircolo, ecco, quando facciamo così purtroppo non azzeriamo il rischio di infarto o di sindrome da crepacuore, però certamente ne riduciamo in maniera considerevole il rischio. Professor Crea, grazie per essere stato con noi, buona giornata e complimenti per lo studio. Grazie a lei e a presto. Pronto soccorso 800 24 00 24, se volete restare con noi in questa puntata fior di pelle in cui affrontiamo un capitolo molto ampio della dermatologia, perché infatti parliamo di dermatiti, un nome generico che abbiamo detto assume significato solo se abbinato, e questo può avvenire solo dopo una diagnosi, ad un secondo termine che ne qualifica la tipologia e aiuta anche a comprendere quindi le terapie adeguate. Professor Gelmetti, proviamo a classificare almeno le forme più frequenti, riprendendo un po' il dove, come, quando, che mi sembra le fosse piaciuto? Sì, infatti ci stavo pensando, e la cosa forse più semplice è forse il quando. La prima, che comincia praticamente alla nascita, è la dermatite seborroica del lattante. Sì. E sostanzialmente è un po' di crosticine e di squamette che sono sul cuoio capelluto del neonato. Sì. Questa, diciamo, è una quasi fisiologia, nel senso che è un po' il segno del fatto che la mamma ha trasmesso al bambino un po' di sostanze, anticorpi, ormoni. Gli ormoni hanno prodotto un po' di sebo, il sebo con i capelli che sono già presenti alla nascita fa un po' da colla, per cui diciamo che è un po' il segno del trapasso da una vita intrauterina a quella estrauterina, e si conclude spontaneamente nel giro di qualche settimana, al massimo un paio di mesi, e queste crosticine possono essere tolte facilmente con un olio vegetale, che può essere un olio d'oliva o un olio di mandorle, eccetera. Quindi meglio toglierle, si passa un po' sì, però, sul diciamo testino che del bambino. Andrebbero via da sole, però se possono dare fastidio dal punto di vista psicologico, dato che al bambino non ne danno nessuno, ovviamente sì, certo, possiamo lasciarle. Però la dermatite seborroica del lattante in realtà molto spesso nasconde quella che inizia un po' dopo il secondo mese possiamo avere la dermatite atopica. La dermatite atopica all'inizio prende le stesse zone della dermatite seborroica, quindi su quello capelluto, ecco perché c'è questo momento di passaggio che poi porta confusione, perché abbiamo uno scontro di diagnosi, come non aveva una dermatite seborroica? No, ha una dermatite atopica. In realtà la dermatite atopica poi prende le zone delle guance, dietro le orecchie, le zone all'inizio deltoidi e gambe e poi le classiche zone antecubitali, quindi davanti ai gomiti e dietro le ginocchia. Sì. E questo purtroppo comincia nei primi mesi di vita e va avanti con alti e bassi per almeno per qualche annetto. Poi nell'adolescente e nell'adulto è più facile chiaramente avere dermatiti banali, da contatto banali, nel senso mica della troppo, frequenza, sì, perché purtroppo sono frequentissime, non per chi ce le ha, perché basta pensare a chi è diventato allergico, non so, a un colorante, tipo il colorante scuro, il colorante nero, che ogni volta che mette dei boxer neri o un jeans nero o una maglia scura che gli può lasciare giù il colore, ovviamente avrà un prurito in alcune zone che non sono affatto piacevoli. Quindi diciamo che dovendo scegliere una tipologia di età possiamo dire neonati, dermatite seborroica del lattante, bambini dermatite atopica e adolescenti e adulti purtroppo dermatiti da contatto di tipo allergico. Alessandro? Poi queste persone sembrano, come dire, disturbi, no? Però in realtà so che queste persone a volte hanno dei forti pruriti e il rischio del forte prurito è quello di grattarsi molto e creare delle lesioni. Sì. Senza contare che c'è anche una tendenza, mi pare, ad abusare di farmaci come il cortisone, che ha la sua indicazione, però rende anche la pelle più labile e quindi più esposta, vero professore? Sì, il problema infatti è proprio questo, che una volta scoperto il cortisone, il che ci fa tornare indietro adesso di 60 anni, molte persone purtroppo cercano la scorciatoia col farmaco, è come un po' parafrasando altre malattie, è come cercare di usare lo sciroppo per la tosse senza smettere di fumare. Quindi questa è una tendenza che va assolutamente combattuta, perché mentre il cortisone è un farmaco fantastico e per fortuna che c'è per le forme acute, basta pensare allo shock anafilattico, che è un salvavita, eccetera eccetera, tanto più uno lo usa in maniera cronica, tanto più questo beneficio si assottiglia fino ad annullarsi e poi addirittura a diventare un effetto negativo. Quindi la filosofia è che se noi abbiamo una dermatite da contatto a un metallo, a un colorante, eccetera, lo sforzo dovrà essere soprattutto quello di evitarne il contatto e non usare l'antidoto, certo, il famoso cortisone. Professor Gelmetti, chiedere ad un dermatologo di immaginare, no, di fare una sorta di diagnosi, tra virgolette, perché non facciamo diagnosi, ma dare le indicazioni per radio è veramente, no, difficile. Però io so che lei ce la fa e quindi le voglio leggere qualche SMS per aiutare i nostri ascoltatori. Sopracciglia sempre arrossate e gonfie, senza squamette. Dermatologi hanno dato risposte varie, ma senza soluzioni. Cosa può essere, professor Gelmetti? Ma sarebbe interessante vedere se ci sono delle squamette altrove. Le sopracciglia, quando sono infiammate, di solito determinano il quadro di una dermatite seborroica, dove spesso c'è un po' di arrossamento anche ai lati del naso. Il fatto che ci sia o meno desquamazione è dato dal fatto se le sopracciglia sono molto abbondanti, molto folte. Se le sopracciglia sono sottili, cosa succede? Succede che non trattengono le squame, quindi queste qui in realtà non si vedono. E allora bisogna vedere se in zone dove i peli sono più densi, ad esempio il cuoio capelluto, c'è un po' di forfora, virgolette, chiuse le virgolette. E allora in questo caso si può confrontare questi due quadri e esprimere una diagnosi. Nel caso di una popolazione maschile, sì, è abbastanza facile trovare un po' di squamettine, un po' di arrossamento anche in zona sternale, soprattutto se, come dicevo prima, soprattutto se la pelosità è abbondante, perché allora è più facile che i peli trattengano le squame, come i peli di una barba abbondante trattengono le squame anche in assenza di una qualsiasi dermatite. Quindi andate a vedere anche altre zone pelose, questo possiamo, esatto, dare come messaggio. Pelle squamata al centro delle sopracciglia, ai lati del naso, tra la barba, sui gomiti e ginocchia. Questo qui è il classico caso di dermatite seborroica, dove il arrossamento si estende, come ho detto prima, anche ai lati del naso, si chiama solco nasogenieno. L'unica cosa in questo caso che va depistata è l'arrossamento ai gomiti e alle ginocchia, perché ci fa pensare a una psoriasi. E del resto la tendenza attuale che considera la dermatite seborroica dell'adulto, e quindi non parliamo di più di quella del lattante, è pensare che sia una forma attenuata di psoriasi. Quindi se oltre alle lesioni delle sopracciglia, al lato del naso, c'è anche un arrossamento, una desquamazione ai gomiti delle ginocchia, molto probabilmente si tratta di una forma iniziale di psoriasi. Prima di andare da Antonio da Padova, voglio leggervi il messaggio di Franco, che ha fatto proprio un compito. Ho 40 anni e da circa 6-7 anni la mia pelle manifesta i sintomi delle dermatite. Franco si scrive alla domanda e si dà la risposta. Zona? Parte alta delle guance tra occhi e naso. Periodo? Da ottobre ad aprile. Si manifesta anche sulla cute della testa, come se fosse fosfora, porfora grossa. Certo. Franco ha fatto quadro preciso. Quello della dermatite seborroica, quello che è il più completo. Ovviamente il fatto qui aggiunge una cosa interessante che è conosciuta, che va da aprile a ottobre. Questo perché? Perché la migliore terapia sia della dermatite seborroica dell'adulto sia del resto della psoriasi è la fototerapia, cioè esporsi alla luce. Quindi è chiaro che da aprile a ottobre noi abbiamo il massimo di irraggiamento, abbiamo praticamente una guarigione spontanea. Se poi andiamo al mare e facciamo anche dei bagni di mare, la faccenda è ancora più favorevole. Allora a questo punto il consiglio è quello di sfruttare il poco sole che c'è anche d'inverno, ma sfruttarlo bene, ad esempio cercando di tenere dei capelli corti, in modo che anche il poco sole dell'inverno riesca ad avere un effetto di pulizia che ovviamente sarebbe impedito dai capelli troppo folti. Ecco, perché è vero che il sole bacia i belli, ma insomma bisogna anche farsi vedere. Certo. Alessandro. Volevo sapere, professore, ma è vero che chi fuma il sigaro, il toscano, ha più spesso e più portato ad avere la dermatite seborroica? Allora, sì e no, nel senso che la dermatite seborroica ce l'hanno i belli, ce l'hanno i brutti, ce l'hanno al nord, ce l'hanno al sud. Il problema è che il fumo aumenta moltissimo la quantità di radicali liberi, e i radicali liberi sono ovviamente il calcio sui maccheroni per qualsiasi dermatite, che va dalla dermatite seborroica alla dermatite atopica, anche ad alcune malattie addirittura autoimmuni. Quindi tanto è vero che poi si consigliano sia dei cibi antiradicali liberi sia degli antiossidanti per guarire, o perlomeno contribuire a guarire, tutte queste malattie. Questa è la filosofia di base. Parleremo di cibi, parleremo di idratazione, cure quotidiane, ma prima Antonio da Novara. Buongiorno Antonio. Sì, buongiorno. Buongiorno. Io volevo raccontare al professore il mio caso. È qualche anno, 3-4 anni, che ciclicamente nell'arco dell'anno, in alcuni periodi più intenso, in altri meno, sulle mani, entrambe, tra le dita, mi viene una, io la chiamo dermatite. Comincia con un prurito, c'è una secrezione trasparente come fosse un'acquetta che viene sotto pelle in alcuni punti. Il prurito aumenta finché poi la pelle non si secca, si spacca. Quindi ho delle ferite anche che me le faccio da solo grattandomi, fino a poi seccarsi completamente, si stacca fisicamente e torna la pelle nuova. Poi può essere, e adesso ce l'ho ed è il terzo ciclo di fila che mi viene, e ogni ciclo dura più o meno 3 settimane, da quando la sento a quando mi tolgo tutta la pelle morta e secca. Sì. E spero che non ne arrivi un altro nuovo. Un classico esempio di quella che si chiama disidrosi, oppure eczema disidrosico, proprio perché in greco idro vuol dire acqua, come diceva l'ascoltatore, c'è questa specie di acquetta che esce. In realtà è il siero, e l'uscita di siero in greco si dice eczema, è da cui il nome eczema disidrosico, ed è una forma che prende sostanzialmente le mani, soprattutto al lato delle dita, può prendere anche i piedi e tende a essere recidivante. Il problema non è tanto la diagnosi, che se ben descritta è abbastanza semplice, quanto la causa, perché la disidrosi può essere sia l'espressione di una banale allergia a una cosa che uno tocca, ma più spesso è un epifenomeno, quindi una conseguenza di un'allergia a qualcosa che uno mangia o inala. Sì. Quindi ad esempio se noi abbiamo la disidrosi che recidiva ogni fine primavera, per chi vive ovviamente nella pianura padana, avremo ovviamente dopo 2-3 anni il sospetto che si tratti di una disidrosi l'equivalente di un raffreddore del fieno. Il fatto che duri circa 2-3 settimane settimane è relativamente semplice, perché la pelle ha un turnover, quindi un ricambio di circa 3 settimane, e quindi una volta che è venuto il danno, che ha fatto venire fuori il siero, la pelle in 2 o 3 settimane lo elimina tutte le cellule morte, e quindi te squame, 3 settimane la pelle è rinata, salvo che a riavere un ulteriore ciclo se il fattore scatenante, come può essere l'impollinazione, sì, è ancora presente nell'ambiente. Andiamo a Udine, c'è Everardo, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, volevo dire, a me circa un anno è apparsa sul cuoio capelluto, proprio tra la fronte, diciamo la pelle della fronte, il cuoio capelluto, sono calvo, no? Una macchia rossa, rosa rossa, insomma di circa 1 centimetro. E ho provato con creme, andato in farmacia, eccetera, non è andata via. Ho detto, ma ho approfittato della trasmissione. Ha fatto bene, Verardo. Insomma, questa macchia rossa, professor Gelmetti, ci dice qualcosa? Ma diciamo che probabilmente è una mini dermatite seborroica. Il fatto che non sia sul cuoio capelluto è abbastanza semplice da spiegare, perché l'ascoltatore dice che ha pochi capelli oppure non ne ha nessuno. E quindi il problema è che la dermatite seborroica viene abbastanza tenuta a bada dalla irradiazione solare, quindi raggi ultravioletti, quindi se uno è molto capelluto non ci arrivano, e avremo squame anche sul capo. Se invece ha pochi capelli o non ne ha affatto, ovviamente la zona del col capelluto sarà pulita, sì, mentre le zone seborroiche, che sono quelle vicino al naso, tra le sopracciglia e i lati del naso, sono quelle che ovviamente sono più attaccate. Professore, lei ha parlato di alimenti, e io vorrei toccare quindi il capitolo dieta, ma toccare poi anche quello della idratazione, dei consigli quotidiani, lavaggi, detersione, scelta del tessuto. Adesso tra poco, io ho iniziato a farlo, c'è il cambio degli armadi, e quindi no, è meglio scegliere poi tessuti. Cambiamo anche, no, proprio il contatto con tessuti più leggeri, e magari la nostra pelle si era abituata a quelli invernali, e a quelli estivi magari fa un pochino più fatica ad adattarsi. Dieta, quale tipo di dieta fa bene in generale a chi ha questo disagio a fior di pelle? Sicuramente il problema riguarda per l'80% i bambini che hanno la dermatite atopica, che sono piccoli. I bambini piccoli che hanno la dermatite atopica nei primi 2 anni di vita hanno una facilità a sviluppare anche allergie alimentari. Il nostro organismo però è programmato per staccarci dall'alimentazione di nostra madre, sì, per cui queste allergie alimentari molto frequenti nei bambini molto piccoli, che non hanno la fortuna di avere una mamma che allatta e che quindi sono costretti a prendere altri cibi, in realtà tempo 3-4 anni praticamente scompaiono. Detto questo, quello che si è visto è in generale quello che si è visto anche per la dieta, la vita sana, per i tumori, che l'alimentazione ricca in vegetali, ricca in fibre, e con un po' di pesce nel corso 2 o 3 volte alla settimana, non solo tende a migliorare generalmente le dermatiti, ma si è visto anche che tende a rendere meno predisposti i bambini che non sono ancora nati, se la loro mamma durante la gravidanza aveva fatto un tipo di alimentazione di questo genere. Professor Gelmetti, passiamo al lavaggio. Passiamo. Quale sapone scegliere, detergenti neutri specifici, creme, quali? Ma allora, qui ci sono tanti problemi sul tappeto. Uno dei problemi è dato dal fatto che la lettura dei cosmetici, che comprendono ovviamente anche i detergenti, è un po' difficile, nel senso che la CE prevede che da un po' di anni tutto quello che c'è dentro venga specificato e scritto. L'unica cosa è che questi termini talvolta non sono perfettamente comprensibili a tutti, quindi alcuni termini scientifici la gente non riesce a percepirli. Quindi il consiglio è in genere di usare prodotti che siano delicati. Cosa vuol dire delicati? Vuol dire che per essere semplici, che non siano molto schiumogeni. Quando un prodotto è molto schiumogeno va bene magari per lavare i jeans sporchi della partita di pallone o sporchi della catena della bicicletta, ma non certamente per lavare la nostra pelle. Quindi la pelle non piace la schiuma, diciamo. No, alla pelle non piace la schiuma, perché quando noi vediamo molta schiuma vuol dire che abbiamo molti tensiattivi. Tensiattivi vuol dire una sostanza che entra tra lo sporco e la nostra pelle e elimina lo sporco, il che sarebbe buono se non ci fosse un particolare, che questa sostanza in realtà si introduce anche tra una cellula e l'altra, quindi fa da cuneo tra una cellula e l'altra, e quindi diciamo che rovina un po' il nostro muretto che ci avvolge. Quindi più è tensiattivo, quindi più è schiumogeno, va bene per lavare, come dico, gli indumenti magari, perché è più efficace, ma per lavare per la noi pelle. Molto di meno. L'idratazione, voi insistete molto, voi in senso come dermatologi insistete molto sull'idratazione, però ci sono persone che poi alla fine si stufano, si seccano, è il caso di dire, all'idea di spalmarsi sempre la crema, perché ci sono persone che hanno zone piuttosto estese che insomma con disagio. Che cosa si fa, professore? Ma allora, anche questo è un problema molto esteso. Basta pensare che la vita media dai tempi dei nostri nonni ad oggi è aumentata dai 50 anni, 55 anni agli 80-85, quindi già questo basterebbe, nel senso che la produzione di sebo è regolata dagli ormoni sessuali, questi dopo i 40-45 cominciano a declinare, e quindi è evidente che la pelle di una persona di 50 è forse un filino secco, ma la pelle di una persona di 80 di 90 anni è molto secca, quindi a questo bisogna fare per forza porre un argine, e quindi man mano che il paziente cresce di età, man mano avrà sempre più bisogno di una crema idratante. L'altro problema è che le creme idratanti non vengono purtroppo ancora in Italia riconosciute come un presidio che può essere utile alla salute del nostro corpo, per cui uno se le deve pagare, quindi tende ad essere magari purtroppo più generoso in alcune creme, magari a lungo andare negative, come il cortisone, perché sono fornite gratuitamente dietro ricetta clinica, che non usare una crema che avrebbe una profilassi sulla necessità futura di usare il cortisone. In Francia, tanto per dirne una, per chi ha l'ittiosi, che è una malattia caratterizzata da una secchezza diffusa, da anni ormai lo Stato passa per ogni paziente adulto 1 chilo di crema idratante al mese. Un chilo, e questo è quello che ci vorrebbe, quanti etti di crema ci vorrebbero per avere un effetto terapeutico? Per un adulto ci vuole circa 30 grammi, e per cui in un mese la moltiplicazione è spesso facile. Quindi abbiamo circa 1 chilo, è chiaro, poi in un bambino un po' meno. L'età del peso la cosa sarà ridotta. No, le chiedo questo per avere un po' un'indicazione, un orientamento. Prima di salutarla, professor Gelmetti, noi oggi non abbiamo parlato di terapie specifiche, perché abbiamo affrontato il capitolo delle dermatiti per distinguerle, per capirne un po' le cause, inquadrarle, soprattutto per sottolineare quanto lo stile di vita, la gestione del quotidiano possa essere utile, mettervi soprattutto in guardia dall'utilizzo indiscriminato di cortisone. Alessandro Pellizzari è molto interessato al cambio di stagione, quindi ai tessuti. Sì, mi hai un po' destabilizzato col discorso degli armadi, perché dovremmo cambiare anche noi. Io ho già fatto, infatti ho freddo. E hai le bimbe grandi. E comunque volevo chiedere al professore, i tessuti, ecco, ci sono dei tessuti che dobbiamo preferire, dei tessuti ai quali dobbiamo stare attenti, dei colori? Un po' abbiamo parlato del colore nero, vestitevi di chiaro se siete allergici, sì. Tutti allora, in bianco a parte che d'estate in genere giustamente ci si veste di chiaro, perché ovviamente spinge poi il calore. Il problema è che meno chimiche abbiamo sulla nostra pelle, meglio è. In realtà le leggi europee e nordamericane sono abbastanza stringenti, però come i giornalisti ci hanno informato ampiamente, sono stati eseguiti dei sequestri importanti sia in Europa, anche in Italia, sia in Australia, in Nuova Zelanda, di partite di vestiti provenienti da paesi, diciamo, asiatici, con concentrazione ad esempio di formalina 900 volte la norma. Allora è chiaro che da questo punto di vista pensare che diano solo allergie è addirittura riduttivo. Quindi Per il resto le suggerimenti sono quelli classici, possono essere cotoneolino ovviamente, e ultimamente per chi ha dermatiti funzionano molto bene della maglieria intima realizzata in seta speciale, cioè in una seta desericinizzata a cui cioè è stata tolta quella parte di sostanze che in rari casi potrebbe dare allergia. Allora questi qui, la seta si comporta come un cotone ultra leggero e ultra scorrevole e ha però dei vantaggi, nel senso che mantiene la temperatura molto più stabile come fa la lana, senza avere l'effetto irritante della lana. Professor Gelmetti, grazie per essere stato con noi, le auguro buona giornata, grazie ancora. Grazie a voi per l'invito. E noi chiudiamo con il consiglio del giorno, che in questo caso è un avvertimento. Parliamo degli stimolanti sessuali naturali, un mercato fiorente non privo di insidie. Si va dagli alimenti ritenuti tradizionalmente afrodisiaci, alle ricette suggerite dalla tradizione popolare, a cocktail di talvolta esotici, di erbe che vantano effetti miracolosi. Attenzione però a non fare di ogni erba un fascio. Allora, per orientarci in questa selva oscura, ho chiesto aiuto al professor Fabio Firenzuoli. Buongiorno. Buongiorno a lei, grazie. Direttore del Centro Medicina Naturale dell'Ospedale San Giuseppe di Empoli. Professore, due minuti. Io giocherei con il semaforo. Inizierei dal rosso, che è il colore della passione, ma in questo caso diventa il colore del pericolo. Quali erbe, quali prodotti mettiamo? Ma intanto mettiamo i prodotti a base di erbe venduti in internet, perché purtroppo molti di questi sono stati trovati inquinati con farmaci di sintesi, in particolare il sildenafil. Sì. Poi mettiamo le erbe, quelle più pericolose, tra queste l'efedrina e anche l'acata edulis, che sono utilizzate anche come stimolanti sessuali, ma che comportano una serie di rischi importanti, soprattutto sul sistema nervoso centrale e cardiovascolare. Poi ci sono anche altre piante non molto pericolose in quanto tali, ma insidiose, perché non sono mai state, la cui efficacia non è mai stata dimostrata, e non le conosciamo neanche da un punto di vista chimico, e quindi ecco, la muirapuama, la damiana e altre. Inutile rischiare. Possiamo passare al giallo, professore? Sì, come no. Cautela, e quindi solo su consiglio medico, corrisponde a questo il giallo? Diciamo, nel nostro semaforo? Io lo vorrei far corrispondere a quelle piante per le quali ci sono alcune evidenze non complete, però che ci consentono, come dire, di passarle. Sì. Ecco, e quindi quando il giallo arriva si può ancora passare, se proprio siamo sulla linea. Se non c'è un vigile che fa la spia. Se non ci sono fattori di rischio. E quindi tra queste direi il ginseng, la ginkgo biloba e la maca, che è una specie di rapa che viene dalle Alpi andine, che hanno, per le quali, diciamo, per ciascuna delle quali esistono dei lavori che dimostrano una certa efficacia, anche interessante. Il ginseng, anzi, addirittura anche come stimolante proprio del desiderio. La ginkgo soprattutto agisce sulle fasi vascolari, e quindi per esempio anche sui disturbi di deficienza erettile nei diabetici o nei fumatori, e la maca anche nei soggetti. Quindi a queste diamo il giallo, mentre il verde, abbiamo qualcosa per il verde? Io devo salutarla, ma il professor Firenzuoli è velocissimo sul verde. Sì, la pianta per la quale ci sono le maggiori evidenze è lo yoimbe, è una pianta africana di cui si usa la yoimbina, anche se l'avvertenza rimane sempre anche nel verde, cioè va usata esclusivamente con prescrizione medica. Professore, grazie per essere stato con noi, buona giornata. Grazie a lei, a voi. Grazie ad Alessandro Pellizzari, al prossimo mese. Grazie a te, arrivederci. A domani.